Pensavamo con Fabrizia di iniziare a fare una meditazione guidata, almeno per un po'. Resta fermo che se avete la vostra pratica, voi sapete che le meditazioni guidate servono semplicemente per contenere la mente casomai divagasse troppo. Quindi quello che accade se già siete in sintonia con il vostro oggetto di meditazione, che sia il respiro, sia qualcos'altro, continuate pure. Se invece sentite che la vostra mente inizia a disperdersi, a vagare, allora in quel caso usate le mie parole come salvagente, come rete, per evitare di divagare troppo. E poi niente, in realtà abbiamo deciso ieri che questo ritiro è improvvisato completamente. Tranne stasera. Stasera approfondiamo il tema che mi sono scordato. Rapporto tra verità e felicità. Ah, ecco. Questo è preparato. Questo è allora, il rapporto tra verità, sì, verità e felicità. Però nel frattempo facciamo meditazione, penso che nel pomeriggio ci dedicheremo eventualmente semplicemente a consolidare un po' la pratica meditativa. Poi eventualmente sviluppiamo alcuni temi un po' più legati alla saggezza. E quindi i campanelli. Va bene, cioè, penso di averci tutto. Lo so, state tutti aspettando me. Cioè, sembra che se non chiudo gli occhi io non respiro, voi non è proprio. Va bene, allora l'istruzione di base. Chiudete gli occhi. Ad occhi chiusi. Semplicemente respiriamo. Senza aspettative, senza preoccuparsi troppo di quello che potrebbe accadere, senza neanche rimugginare su quello che è già accaduto in questa giornata. Semplicemente respiriamo. Semplicemente restiamo in ascolto dell'aria che entra e dell'aria che esce. Dell'aria che entra e dell'aria che esce. Volendo, per restare in contatto meglio con l'aria che entra e l'aria che esce, possiamo raccogliere l'attenzione nell'aria attorno al naso, alle narici o al labbro superiore. E respirare. Con l'aria che entra e l'aria che esce. Possiamo osservare l'inspirazione e l'espirazione. L'aria entra e l'aria esce. Diamo fluidità all'aria che entra e all'aria che esce. Non lasciamo che sia un semplice esercizio meccanico, ma prendiamo il respiro comodo, a proprio agio, in un corpo rilassato. E con una mente vigile, aperta. E lasciamo che l'aria entri e che l'aria esca. Senza aspettative per il futuro, senza preoccupazioni o rimpianti per il passato, semplicemente respiriamo. E l'aria entra e l'aria esce e si sta bene. possiamo anche osservare l'aria che entra e l'aria che esce nella zona del petto. Possiamo ascoltare il flusso dell'aria che entra e dell'aria che esce al petto, al torace. L'aria esce e diamo fluidità a quest'aria. Accogliamola in maniera morbida, comoda. Permettiamo al corpo di rilassarsi. Ammorbidirsi. E permettiamo alla mente di rimanere vigile, agile, ricettiva. All'aria che entra e all'aria che esce. E si sta bene. Il corpo è rilassato, la mente è vigile, pronta. Ed osserva. Osserva l'aria che entra e l'aria che esce. Spostiamo ora la nostra attenzione alla pancia. E anche la pancia respira. quando l'aria entra, la pancia si gonfia. E quando l'aria esce, la pancia si sgonfia. Senza forzare, semplicemente seguendo un ritmo naturale. Si gonfia e la pancia si sgonfia. Senza fare troppe pressioni, semplicemente respiriamo basso, respiriamo in profondità con la pancia. E ora lasciamo che tutto il corpo respiri. Che il corpo respiri nella sua interezza. Lasciamo che l'aria entri e che l'aria esca e che si diffonda in tutto il corpo, che fluisca in tutto il corpo. Non mettiamo ostacoli attraverso i nostri pensieri o le nostre idee, emozioni, ma semplicemente respiriamo. E lasciamo che l'aria fluisca liberamente in tutto il corpo. Lasciamo che l'aria entri dal naso, vada nei polmoni, gonfi la pancia, si distribuisca in tutto il corpo e poi vada via. Permettiamo al corpo di essere rilassato e di respirare nella sua interezza. E lasciamo che la mente sia agile, pronta, ricettiva e che sappia osservare il corpo che respira. L'aria che entra e si diffonde in tutto il corpo e si esprime attraverso l'energia, l'ossigeno, le pulsazioni, il calore. Pori della pelle che respirano. I movimenti della muscolatura. Tutto il corpo che respira. Respira a suo modo, non necessariamente come noi pensiamo che il corpo respiri. Ma respira. Diamoci l'opportunità di osservare. Il corpo che respira. Nei suoi diversi aspetti. Se queste indicazioni vi hanno un po' confuso, allora a chi si trova con questo stato mentale dico di ritornare al respiro più semplice, intorno alle narici, oppure al petto o alla pancia. E osservare il respiro lì, nella sua componente più di base. se invece la mente è sufficientemente quieta, raccolta, e il corpo comodo, aprite la presenza mentale a tutto il corpo che respira. E osservate l'aria che entra e l'aria che esce. Rilassato, quieto, comodo. La mente è presente, pronta, ricettiva, agile. Lasciamo che corpo e mente si nutrino del respiro. Dell'osservazione del respiro in tutti i suoi aspetti. Partendo da quelli più grossolani, per poi esplorare quelli un po' più sottili e così via, così via, respiro dopo respiro. Di aver caricato troppo questa pratica con delle aspettative, continuiamo ancora a respirare, ma lasciando andare. Ritornando alla comodità del corpo e lasciamo andare. Se invece notiamo che la mente è ottusa o semplicemente ha i suoi dubbi, non sa cosa guardare, vaga, allora respiriamo, ispiriamo con più energia, con più vigore, riportiamo la nostra attenzione al respiro ed ecco che gli abbiamo dato un senso all'aria che entra e all'aria che esce. E il resto è irrilevante. E l'aria esce. Controlliamo che il corpo sia comodo, a proprio agio. Tensioni nel corpo possono facilmente ripercuotersi nella mente, creare delle tensioni, blocchi mentali. Quindi lasciamo che il corpo si rilassi, si riposi. Respiro dopo respiro. E lasciamo che la mente mantenga la sua vigilanza, la sua presenza. Respiro dopo respiro. Facciamo l'ultima parte in semplice silenzio, ma manteniamo l'equilibrio, perché siamo in equilibrio sul respiro. Leggeri, rimaniamo in equilibrio sul respiro. E più rimaniamo in equilibrio sul respiro, più la mente diventa stabile. E l'equilibrio un elemento naturale. In equilibrio sul respiro per gli ultimi minuti in silenzio di questa meditazione. possiamo farlo anche lì, possiamo farlo, sì. Allora, ora pensavamo con Fabrizia di farvi fare un po' di meditazione camminata. Poi non si sa. Quanto fai? Mezz'ora? Diciamo mezz'ora. Allora, una mezz'ora di meditazione camminata. E dillo tu dove sì. Potete fare anche in giardino, solo che purtroppo sta piovigginando, altrimenti nel portico qui sopra dove siete entrati c'è abbastanza spazio lì in saletta, in quella, se qualcuno vuole rimanere anche nella saletta, qua. Qualcuno volendo anche qua. E avete tutti fatto meditazione camminata di già, vero? Allora, chi sa fare meditazione camminata, gli direi di fare meditazione camminata. In ogni caso, non è che sia meglio dare l'indicazione per la meditazione camminata. Invece, chi ha bisogno di istruzioni, venga qui più vicino. Fra mezz'ora? Ci si rivede qua fra mezz'ora, quindi alle 4:15. Ritiro, diciamo, da parte. Sì, se avete bisogno di indicazioni. Lei è Laura. Ah, Laura, sì. Quale? Quello dentro la pancetta è Gabriel. Sì. Dentro il pancino. Dietro? Dentro la pancina. Ma è Laura di... Di Salò, amica di Samuele. Voi avete... L'amica di Samuele. Va bene, allora, per voi che... Avete delle indicazioni? Per noi. Prima meditazione camminata. Se, quello che si fa è si cerca di si raccoglie anziché si modifica l'oggetto di meditazione. L'oggetto di meditazione, invece di essere il respiro, in questo caso è il corpo in movimento. Quindi praticamente si inizia a prestare attenzione al corpo semplicemente che cammina. E nella nostra tradizione, quando si dice meditazione camminata, significa andare avanti e indietro. Non significa tanto andare in giro in qua e là, ma significa andare in un percorso possibilmente dritto in piano di circa 25 passi avanti e indietro. Alla fine di questo sentiero immaginario di meditazione ci si ferma un attimo, si respira, ci si volta e si ricammina verso indietro. Ugualmente, una volta terminato il percorso, ci si ferma un attimo, si respira e si continua avanti e indietro. Capite che non è che abbia molto senso in termini pratici, siamo sempre abituati a dover arrivare da qualche parte. A sto giro si va semplicemente avanti e indietro. Infatti, guardare dalle finestre tutti voi che andate avanti e indietro è uno spettacolo, perché ti immagini i vicini che chiamano. Ci sono già abituati, per fortuna. Ah, ci sono già abituati, hanno già chiamato allora il 118. Comunque, al di là di tutto, è una pratica molto utile, perché dà la possibilità di raccogliere la mente con qualcosa di più concreto. Talvolta gli oggetti, il respiro o altri oggetti mentali sfuggono facilmente dalla nostra presenza mentale, dalla nostra consapevolezza. La camminata invece dà qualcosa di più tangibile, di più tangibile da osservare, da vedere. Ci sono vari modi anche per fare la camminata, dal semplice, alcune volte molto articolati, dove si presta proprio attenzione al sollevare la punta del piede, all'appoggiare del tallone. Onestamente mi sembra un po' troppo, non è necessario. La più bella definizione di meditazione camminata, forse, non definizione, ma insomma, l'idea di meditazione camminata l'ha fornita Chan Suchito, dicendo: togliendo questo elemento troppo meccanico, ai maschi dicendo: non è che state facendo le sentinelle avanti e indietro a cercare il nemico, ma camminate piacevolmente, rilassati. E fondamentalmente tutto. Non è che ci sia le mani, talvolta noi come mono ci siamo abituati a tenere le mani davanti quando fai la meditazione camminata. Se sei un monaco anziano ti puoi permettere di camminare con le mani di dietro, ma questo bisogna avere una certa età, insomma, bisogna essere a Chanma spesso per fare questo, però non è così. Cioè, si tratta di camminare, seguire il proprio ritmo. Chi conosce i monaci del, chi è stato al Santa Cittarama, chi conosce i monaci del Santa Cittarama, anche visto i nostri stili, e quindi insomma conosce il camminare di Ajahn Thok, molto signorile, con la spalla destra sempre un po' più alta perché deve la spalla sinistra più alta perché deve sostenere il mantello e il braccino più così. Ajahn Go è un rapper. A San Gian da Palo, il nostro abate è inglese, decisamente molto british anche nell'andatura, eccetera eccetera. Quindi camminate con il vostro ritmo, l'importante è capire che state cercando di raccogliere la mente su un corpo in movimento. In altre parole, cerchiamo di non essere più troppo nel mentale, ma riscopriamo la presenza mentale del corpo, come in fin dei conti abbiamo cercato di fare con questa meditazione. E quindi i pensieri che possono sorgere li mettete da parte e camminate, scegliete appunto il vostro ritmo, se volete a Chang'o, ma non lo conoscete voi, ma no, e siete un repettare, ok, per il repettare, se volete essere molto eleganti, se volete essere molto dignitosi come Chan Chan Napalo, insomma, se volete essere voi stessi, non ci va bene, tanto dopo faremo Anatta e poi scopriremo che, che questo sé è un po' vago da definire. Non avrei altre indicazioni particolari, se non li invito a sperimentare. E se vi fa male la gola, Sara ci ha offerto queste caramelline.